Hashtag Autotrasporti. Buonasera da Andrea Ferro, bentrovati ad un nuovo appuntamento di Hashtag Autotrasporti del lunedì, il programma di Radio 24 in viaggio lungo le rotte, i temi che orientano l'attenzione di un comparto cruciale per la nostra economia. Praticamente un viaggio parallelo a quello che ogni giorno e ogni notte compiono migliaia e migliaia di mezzi lungo la penisola e in tutta Europa. 15.000 sono i chilometri già percorsi dal primo camion a guida autonoma autorizzato a circolare in Nevada. E questa settimana, come avete sentito, la rubrica del numero ci porta molto lontano in termini geografici, ma non nel tempo, perché in questo caso il futuro è già realtà. Andiamo infatti in Nevada, dove, se dovesse capitarvi di fare un giro da quelle parti, potreste incrociare un camion che procede senza l'autista, condotto cioè da un'intelligenza artificiale. Lo stato del Nevada ha infatti autorizzato la circolazione sulle highway, cioè le autostrade, di mezzi pesanti a guida automatizzata. Dal Nevada il nostro Massimo De Donato ci racconta la storia vera del camion che va da solo. Beh, in realtà è una storia che fino a qualche anno fa non si immaginava neanche di raccontare, perché fino a qualche anno fa quello che abbiamo visto qualche giorno fa appunto in Nevada era futuro remoto, e invece siamo arrivati al presente, perché siamo arrivati ad un veicolo pesante che va da solo, che è, come si dice tecnicamente, a guida automatica o automatizzata. In realtà non dobbiamo immaginare un veicolo che si muova senza nessun tipo di autista. L'autista c'è, è ben vigile ed è sempre pronto a prendere il controllo del volante. Dobbiamo immaginare un veicolo che in realtà, grazie a tutta la telematica e alla strumentazione di cui dispone, può leggere correttamente quello che succede attorno. Quindi leggere la carreggiata, per esempio, individuare grazie a un radar i veicoli che sono davanti a lui e quindi adeguarsi alle velocità dei veicoli che lo precedono, può controllare ciò che avviene attorno appunto al semirimorchio grazie ad una serie di sensori. Grazie a tutta questa strumentazione e grazie soprattutto al controllo del volante, che era l'ultimo dei tabù rimasti, il veicolo effettivamente può sterzare, può accelerare, può decelerare e fare tutto questo da solo. Laddove dovesse invece percepire il computer che non riesce a gestire la situazione, grazie ad un segnale sonoro molto forte, molto evidente, fa capire all'autista che c'è bisogno di prendere il controllo della situazione, e quindi l'autista può in poche frazioni di secondo rimettere le mani sul volante e quindi riprendere il controllo del veicolo. In Italia lo vedremo mai un veicolo del genere? No, questo veicolo non lo vedremo mai per tutta una serie di motivi. Il primo è perché, come ti dicevo poco fa, il Nevada è l'unico stato al mondo dove è possibile immatricolare veicoli a guida automatizzata. L'Italia è ancora molto lontana, ma la stessa Europa è molto lontana da questo tipo di normativa. La Germania sta lavorando molto su questa normativa, ma sono tempi sicuramente non lunghi. E poi c'è un altro problema, che il veicolo che abbiamo testato noi è un classico musone, cioè uno di quei veicoli americani che hanno il motore davanti alla cabina, che è un tipo di veicolo che appunto in Europa non può circolare, o meglio potrebbe circolare ma con uno svantaggio enorme in termini di capacità di carico, e quindi non si vede quasi mai. Grazie Massimo, buona serata. Grazie a voi. Per il nostro giro di ascolto dei presidenti delle associazioni di categoria iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, questa sera abbiamo in linea Stefania Pezzetti, che è presidente di FEDIT, la storica associazione dei Corrieri Espresso. Buonasera Pezzetti. Buonasera. Con lei stasera vorremmo concentrare l'attenzione su questo settore dell'autotrasporto. Ormai le consegne a domicilio sono entrate nella quotidianità di molte famiglie. Un recente studio, per esempio, ha sottolineato la crescita costante dell'e-commerce, cioè degli acquisti via web. Un mercato in espansione, ma contemporaneamente ad accompagnare questa tendenza si innesca un'esigenza sempre più forte di legalità. È così, Pezzetti? Assolutamente sì. Legalità per la FEDIT vuol dire tante cose. Legalità vuol dire avere degli operatori di trasporto che rispettino le normative nazionali, sia in termini di legislazione del trasporto ma anche in termini di legislazione del lavoro, che paghino gli operatori in maniera adeguata, che non si sottraggano dal pagamento delle imposte o dei contributi, insomma di tutto quello che rappresenta il mondo del lavoro e dei costi che si porta dietro. Purtroppo non è sempre così, perché l'evasione fiscale contributiva è un fenomeno estremamente diffuso. Legalità vuole anche dire rispetto delle norme per quanto concerne le relazioni sindacali e non solo, quindi abbiamo spesso delle azioni diciamo un po' al limite della legalità nei magazzini, ove a fianco di rivendicazioni sicuramente legittime di condizioni lavorative migliori, ci troviamo a delle esagerazioni, arriviamo veramente borderline nei metodi applicativi della richiesta del rispetto dei diritti. Fedit è impegnata da tempo sul fronte della sostenibilità ecologica. Consideriamo che i mezzi entrano nel cuore delle città, dei centri storici, sono stati avviati accordi con alcuni comuni e presto potrebbero essercene altri. Su che cosa si basano questi accordi? Si basano sul concetto della premialità, quindi sono degli accordi che costituiscono un win-win sia per le imprese di trasporto che per la municipalità, così come per i cittadini. Perché? Perché le aziende che operano con mezzi ecologici o di basso impianto vengono favorite nell'ingresso ai centri urbani sia in termini di orari che in termini di possibilità che in termini operative. Dall'altra parte ovviamente le municipalità vedono entrare nelle proprie ZTL, per esempio, dei mezzi a basso livello di inquinamento, e questo favorisce anche la vita dei cittadini all'interno dei centri urbani. Esempi ce ne sono diversi, ma sicuramente il più significativo è quello di Torino, che è un po' rappresentato il primo esempio di accordo fra municipalità ed associazioni per la regolamentazione dell'ingresso nel centro urbano. Ce ne saranno altri? Assolutamente sì, ci stiamo lavorando. Stefania Pezzetti, allargando lo sguardo all'intero comparto, ci sono dati in controluce sulla ripresa. Da più parti si parla di una ripresa generale, seppur lieve, dei traffici, ma contemporaneamente si scontano ancora gli effetti pesantissimi di anni di crisi. Per agganciare questa ripresa, ammesso esista, le associazioni di categoria cosa chiedono al governo? Di non lasciarci soli e quindi di eliminare gli elementi distorsivi del mercato, principalmente rappresentati da quelle aziende che operano in territorio che anzi sono basate su territori diversi da quelli italiani, con delle legislazioni a loro più favorevoli, e quindi operano a costi decisamente inferiori rispetto ai nostri. Esempi in Europa ce ne sono. Chiediamo al governo in qualche modo di analizzare quelle che sono le normative negli altri paesi europei e di importarle in Italia per favorire la crescita all'interno del nostro paese. Stefania Pezzetti, grazie e buonasera. Buonasera. Questa sera, nella rubrica dedicata alla storia di un trasporto, torniamo a parlare di animali, di cavalli, e lo facciamo con Carlo Caponi, che è presidente di Assotrabe, l'associazione delle imprese di trasporto bestiame. Un trasporto delicato, quello dei cavalli, nel quale negli ultimi tempi si sono cimentati operatori non professionali. Se si dovesse rispettare la legge, se ne caricano pochi, perché gli animali vanno trasportati uno per stallo, cioè ogni box un animale. Mettendo un animale per box se ne mettono pochissimi, 19, 20, e quindi non conviene più a nessuno. E tanti furbastri che fanno? Fanno i box più grandi, ma non sono regolari, quindi lì c'è da controllare un attimino per strada, perché spesso il trasporto cavalli è fatto in modo abusivo, sia per la questione commerciale, sia per il fatto degli hobby. Il fatto degli hobby negli ippodromi, lì ci sono questi van che sono eccezionali, ma anche lì c'è un traffico di trasporti in nero e fatti male, cioè magari un signore che ha un van per 4-5 cavalli, lui ce n'ha solo uno e ne carica 3 o 4 di altre aziende, di altri signori che hanno questo hobby, e non si può fare. Per trasportare cavalli ci sono tempi precisi da rispettare. I cavalli ogni 8 ore devono essere abbeverati, quindi il mezzo si deve fermare, segnare in un apposito registro che hanno bevuto, diciamo, no? Quindi ogni 8 ore. E i mezzi devono avere a disposizione l'acqua e il fieno, logicamente, quindi avranno un ripostiglio per il fieno. E per rispettare le norme occorrono mezzi sempre più attrezzati. Adesso col regolamento 1/2005, quello che riguarda il benessere degli animali durante il trasporto, le cose sono cambiate e i mezzi, c'è stata una grande innovazione. Tutti i mezzi hanno le ventole per dare un certo aereamento al mezzo, e le temperature devono essere dai 5 ai 35 gradi. Hanno delle finestre mobili che si aprono e si chiudono a seconda del tempo che fa fuori, diciamo. Quindi ecco, i mezzi sono all'altezza della situazione.